strano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Una vera azione di guerra a Mumbai, un'autobomba nei pressi dell'ambasciata USA a Kabul, le credibili minacce di attentato contro la metropolitana di New York. Il risveglio è brusco e un terrorismo per nulla indebolito piomba sulla scrivania dello studio ovale prima ancora che Barack Obama ne abbia preso possesso. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella e Franco Venturini, editorialista del Corriere della Sera, che abbozza un'analisi, avvertimento al Presidente, il terrore e Obama. Gli episodi, scrive Venturini sul Corriere della Sera, certo sono diversi. Nella capitale economica dell'India non è ancora chiaro quale delle tante informazioni islamiche si sia macchiata della strage negli alberghi occidentali, ma è chiarissimo che l'accurata preparazione degli attacchi e la presa di un gran numero di ostaggi alzano il livello della sfida in un paese che pure con il terrore è abituato a convivere. L'allarme decretato a New York per le feste in arrivo poi può essere tutto: l'individuazione di un effettivo piano di attacco oppure una mossa dei terroristi per seminare paura e memoria, indipendentemente dalla reale volontà di colpire. Argomentazioni: il nuovo capo della Casa Bianca avrà da gestire la pesante eredità di George Bush, della quale difficilmente potrebbe essere considerato responsabile, ma non basta. Obama ha promesso con grande enfasi e ripetutamente di catturare o uccidere quel Bin Laden cui ormai pochi pensano, e soprattutto Obama rappresenta per quei perchedisti affini un serio pericolo di perdita di influenza in quel mondo arabo-islamico, le cui lotte interne tanta parte hanno nel terrorismo islamista. Questo scrive Franco Venturini sul Corriere della Sera e conclude se ne rendo conto Ayman al-Zawahiri, quando definisce Obama un house negro, traditore dell'Islam. Infatti il presidente eletto non è islamico, ma ha un padre islamico. È nero ed è stato votato in massa dai neri più diseredati. Anche per questo è popolare nel mondo arabo, mille volte più di Bush. Insomma, in attesa delle opportune verifiche, è un antidoto temibile alla propaganda di Al-Qaeda contro gli arroganti infedeli d'Occidente e dunque va combattuto raddoppiando gli sforzi nelle stragi come nel discredito. Questo scrive Franco Venturini, quindi accreditando comunque l'idea che ormai è diffusa fra quasi tutti, che sia proprio un braccio armato di Al-Qaeda ad aver colpito in India. Tra le altre cose c'è l'altra questione, che fa una certa impressione, il mistero dei terroristi ragazzini venuti dal mare. I terroristi hanno agito come un comando di forze speciali, con buon coordinamento. A quelli arrivati dal mare si sono aggiunti altri, infiltrati in precedenza, in totale oltre una ventina. Fotografie e testimonianze li definiscono così: sui 20-25 anni, armati con Kalashnikov, corti, granate ed esplosivo. Al polso uno strano braccialetto arancione, simile a quelli che a volte portano gli estremisti indù, un simbolo d'appartenenza religiosa o magari un segno di riconoscimento tra terroristi. Questo è quello che l'interrogativo che si pone Guido Olimpio a proposito di questo fenomeno, davvero, insomma, che ha colpito tutta la stampa mondiale, questa dei ragazzini in azione. Vi sono poi, prendo meno spazio ovviamente, le altre notizie del giorno: Gelmini sia al PD, che però vota contro sull'università, e poi, come sappiamo dai GR, il governo bonus famiglie da 200 a 1000 euro. Ci sono anche ancora testimonianze, tante testimonianze. Intanto il giornale proprio ritorna sul tema: l'esercito della paura ha il volto del fanciullo. Gli attentati di Mumbai hanno conquistato una platea globale, stavolta i visi di chi ha sparso il sangue sono stati svelati in diretta dalle telecamere. Sorpresa, ad agire non erano incalliti mercenari, ma ragazzi imberbi. Avevano l'aria da ragazzini. Ero al caffè Leopold, hanno ferito me e la mia ragazza Katie, che è stata colpita al femore. Mi sono girato e l'ho trascinata via. Ero ospite al Thai Mahal, ho visto due ragazzini che gettavano granate, poi hanno imbracciato dei fucili semiautomatici. Erano giovanissimi, quasi bambini. Le voci sono quelle di Rakesh, Steve e David. Parlano ancora sotto shock, hanno il respiro che trema. Leggiamo sul giornale, un'immagine unica per tutti. Chiudono gli occhi che rivedono quelle facce da bambini che sparano ovunque. Sono entrati tirando calci alle porte, il fucile abbracciato stretto, le mani svelte e nervose, ai piedi scarpe da ginnastica per muoversi veloci, pantaloni sportivi con tasche piene di granate da tirare, vestiti che si potrebbero confondere con quelli usati da degli adolescenti arrabbiati di tutte le metropoli del mondo, cultura hip hop, felpe con il cappuccio, scritte stilizzate sulle magliette. Poi la pelle inizia a sudare, gli occhi sgranati sempre più grandi per nascondere rabbia, paura, follia, le prime urla per chiamare le vittime. Dove sono gli inglesi? Vogliamo gli stranieri, il resto fuori. Poi le mani che sussultano, i colpi che partono a raffica pesanti, a ripetizione infinita. Chi resta vivo viene rincorso fino alla fine. L'assalto ai treni è così, colpiscono le carrozze, chi si muove, chi scappa viene inseguito e mirato. Così il blitz agli hotel, ai ristoranti. Vedevo solo questi occhi grandi da bambino che sparava, dice Garrick, australiano. Hanno colpito e ucciso per tutta la notte, sono rimasti asserragliati insieme a loro vittime per ore. Ecco, questo una delle tante cronache, testimonianze dirette, questa che vi ho letto è sul giornale e che affida a Paolo Guzzanti, la metastasi del terrore. Perché l'India? È davvero Al-Qaeda il regista delle stragi che sono e stanno avvenendo, che sono avvenute in India in queste ore? Beh, di questo e di altro parlerà l'ospite di Dietro la Notizia stamane alle 8.30, la trasmissione condotta dal direttore Gianfranco Fabi. L'ospite è l'ambasciatore Borzi Biancheri, presidente dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che avrà modo di spiegare il suo punto di vista su quello che sta avvenendo in India. E a proposito di questo, torniamo, perché Bernardo Valli sul quotidiano La Repubblica, per esempio, ha una chiave di lettura: il solo effetto immediato e forse provvisorio del massacro di Mumbai è quello di avere ravvivato la vecchia storica rivalità tra l'India e il Pakistan. E quando i sospetti tra le due potenze atomiche del subcontinente asiatico scivolano in una nevrosi acuta, la situazione diventa inquietante. Dopo aver studiato il comportamento degli assalitori dei due grandi alberghi, il generale Huda, comandante delle truppe indiane sul posto, ha detto perentorio che si tratta di gente proveniente dall'altra parte della frontiera. Ecco, quindi questa è una chiave di lettura di Bernardo Valle sul quotidiano La Repubblica, ma c'è anche Federico Rampini che invece sottolinea un altro aspetto: l'India ancestrale delle faide religiose ha colpito selvaggiamente la sua figlia più splendida, Mumbai, la città simbolo di una modernizzazione ammirata nel mondo. Un odio secolare si avvinghia alla più grande democrazia della storia e strangola la sua capitale economico-finanziaria. Il terrore aveva già insanguinato Mumbai 2 anni fa, 180 morti, ma fu una strage povera di pendolari, non colpì i pilastri del miracolo economico, stavolta li hanno centrati tutti. A cominciare dai due hotel Taj Mahal e Oberoi, perennemente affollati da delegazioni confindustriali e bancarie, tappa obbligata per il gota del capitalismo planetario e per i turisti occidentali, lì vicino il Bombay Stock Exchange, una delle borse più sfavillanti dei paesi emergenti prima del crollo di Wall Street, la Reserve Bank of India che gestisce di nuovo il nuovo status internazionale della rupia, i quartieri generali di colossi multinazionali come Tata, Reliance, Infosys, Mittal, e così via dicendo. E l'India che si impadronisce di Jaguar e Land Rover. Ecco, dice quindi Rampini, lì sono stati colpiti proprio i simboli della ricchezza, della neo-ricchezza, del neopotere economico indiano e non solo indiano. Questa è un'altra chiave di lettura. La Repubblica poi invece ha una cosa curiosa che non c'entra niente con l'India. Viene segnalato l'incontro, diciamo, viene segnalato la nuova uscita, l'album di raccolta di Adriano Celentano, dei successi di Adriano Celentano, con l'inedito che si chiama Sognando Chernobyl, l'inedito inserito nella nuova raccolta antologica che si chiama L'Animale. Ecco, la cosa curiosa è che a intervistare Adriano Celentano è Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, cioè non, diciamo, che non è un giornalista, in genere commenta i grandi casi, i grandi problemi che riguardano l'alimentazione, lo Slow Food nel mondo, in Italia, nel mondo, e in questo caso si fa intervistatore di Adriano Celentano in un articolo che si chiama L'Apocalisse di Celentano e il nuovo disco L'Animale. Ecco, questo sul quotidiano La Repubblica. Io volevo ora invece cambiare per un momento argomento e andare al Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore invece apre con un titolo molto forte rispetto al piano, dice no delle imprese, il piano UE divide gli stati sugli aiuti. Marcegaglia, Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, poche le risorse, sforare il deficit per un anno. Il piano anticrisi varato dalla UE non basta al mondo delle imprese. Poche sono le risorse e c'è il rischio che ogni Stato possa andare per conto proprio, ha detto la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia da Tel Aviv, dove era per la missione organizzata in occasione della visita del Presidente Giorgio Napolitano. Oggi il via al decreto bonus famiglie più pesante, il costo sale a circa 2-3 miliardi. E insomma, ecco, è un messaggio che viene dal mondo delle imprese molto forte al governo e alla UE soprattutto, dove dice insomma più soldi per fronteggiare la crisi, ora che l'Unione Europea ha permesso agli Stati membri di andare oltre i vincoli del patto di stabilità, Emma Marcegaglia, presidente della Confindustria, preme sul governo. Le risorse per le imprese e famiglie sono insufficienti, bisogna aumentare il pacchetto per qualche migliaio di euro. Siamo davanti a una congiuntura pesante e penso che peggiorerà, dice Emma Marcegaglia, alla fine dell'anno e nel primo trimestre 2009, e quindi dobbiamo, per recuperare più fondi da destinare a imprese e famiglie, si potrebbero allentare per un solo anno i vincoli sui conti pubblici, cioè i vincoli di Maastricht. Noi sappiamo che su questo c'è una grande dibattito all'interno della maggioranza di governo, perché per esempio servizi che vi abbiamo letto nei giorni scorsi, il ministro Giulio Tremonti non è affatto dell'idea di violare i vincoli di Maastricht, e infatti tutto si gioca attorno, cioè una parte delle questioni di come distribuire il denaro si gioca attorno a questa a questo principio, uscire per un attimo dai vincoli di Maastricht oppure no, questo è il senso del dibattito interno. Mario Margiocco invece parla degli errori dimenticati del team di Obama. La nuova squadra economica annunciata da Barack Obama dovrà fare uscire gli Stati Uniti dalla peggiore crisi finanziaria degli ultimi 70 anni. E qui ci sono delle considerazioni di Mario Margiocco attorno agli errori appunto dimenticati del team di Obama. Questo sul Sole 24 Ore. Un altro quotidiano, diciamo, che per ragioni diverse ovviamente dal Sole, che è un quotidiano economico e quindi deve aprire sulle questioni economiche, che però non apre sull'India, è il quotidiano Libero invece, che giornale economico non è, ma preferisce aprire su un'altra questione. Giallo all'Italia, signor 15 milioni, il commissario Augusto Fantozzi riceverà un compenso da sogno. Lui smentisce, ma il calcolo della parcella si fa per legge su crediti e debiti e alla fine la somma sarà ingente. Il professor Augusto Fantozzi, scrive Vittorio Feltri, il direttore, è un fior di professionista. Col governo Lamberto Dini fu ministro delle finanze e di bilancio, col governo Romano Prodi guidò il bilancio, è titolare di un rinomato studio di commercialista in cui prestano opera parecchi dottori, presumo bravissimi. Dall'agosto scorso, da quando è stato dichiarato lo stato di insolvenza, anticamera del fallimento di Alitalia, Italia, Fantozzi funge, grazie al gabinetto Berlusconi, da commissario straordinario dell'azienda dissestata. Insomma, tutto questo per dire, ciò premesso, comprendiamo un gruppo di esponenti del Partito Democratico che ha presentato un'interrogazione parlamentare per sapere se 15 milioni di euro non siano un compenso un po' eccessivo per un uomo pur di valore chiamato a gestire la salma della compagnia aerea. E insomma, la voce delle sulle dimensioni dei superstipendi girava da qualche tempo, e la cosa più giusta da fare in questi casi è chiedere precisazioni attraverso canali ufficiali. E insomma, l'analisi dice che probabilmente potrebbero essere anche di più di 15 milioni, e su questo si è aperto ovviamente un grande dibattito, perché in tempi di crisi 30 miliardi delle vecchie lire a una gestione pur meritevole come quella di Fantozzi sembrano a tutti un po' troppi. Questo il quotidiano Libero. Il riformista apre stop ai concorsi truffa. Anche qui il titolo principale è ancora sullo scandalo di Ro. Alfano dichiara: mai più una farsa così, sarà licenziato chi fa i brogli. Ma Antonio Polito parla invece della strage di Mumbai. La guerra continua. Subito dopo le elezioni di Barack Obama, qualche buon tempone demagogo disse e scrisse che era l'alba di un mondo nuovo. La battaglia di Mumbai ci dimostra che così non è. Obama si troverà di fronte lo stesso mondo che ha sconvolto la presidenza Bush. Il fatto è che la testa dell'idra islamista è ancora viva, anzi non sappiamo neanche se sia una testa o un qualsiasi tentacolo di questo polipo planetario. Questo scrive Antonio Polito per ribadire anche lui, come altri osservatori, che insomma la lotta al terrorismo, il terrorismo è tutt'altro che battuto, e addirittura ancora non si conosce non si conoscono le sue ramificazioni. Uno degli interrogativi che i quotidiani oggi hanno sulle prime pagine riguarda proprio il ruolo di Al Qaeda. È davvero Al Qaeda, abbiamo detto, si interrogano molti, l'organizzazione regista della strage, quella che il manifesto chiama fronte orientale? Molti dicono di sì, altri dubitano. Per esempio, sul manifesto, in questo articolo dal titolo Terrore globale, Tariq Ali dice: Al Qaeda, come ha di recente sottolineato la CIA, è un gruppo in declino, non si è più avvicinato a compiere qualcosa di solo vagamente somigliante all'11 settembre 2001. Il suo leader principale, Osama Bin Laden, potrebbe anche essere morto. Certamente non ha fatto lui in persona l'intervento video in occasione delle ultime elezioni presidenziali USA. E il suo vice è tornato alle minacce e alle bravate. Che dire del Pakistan, l'esercito nazionale massicciamente impiegato in azioni lungo la sua frontiera nord-occidentale, in azioni lungo in un'area destabilizzata dalle perdite della guerra afghana. E quindi l'interrogativo di Tariq Ali: ma perché dovrebbe costituire una sorpresa l'eventualità che gli attentatori siano musulmani di nazionalità indiana? Non è un segreto che tra gli strati più poveri della comunità musulmana cova la rabbia contro la discriminazione sistematica e gli atti di violenza portati avanti nei loro confronti, dei quali il pogrom antimusulmano del 2001 a Gujarat è solo l'episodio più eclatante e più noto. Quindi l'analisi è un po' diversa. Qui dice: potrebbero essere, è un fenomeno molto interno indiano, di questioni che riguardino propriamente l'India e non come dire, un'importazione da fuori dell'organizzazione terroristica Al Qaeda. Questo il manifesto, mentre quotidiano La Stampa, l'orrore e i dubbi. Anindita Sengupta è l'autore di un editoriale: mentre sto scrivendo, ore e ore dopo l'inizio dell'attacco, una sparatoria in furia ancora dal Trident Oberoi Hotel nel complesso residenziale adiacente, mentre si sentono nuove esplosioni provenienti dal Thai Hotel. Più di 100 persone sono già state uccise, centinaia sono rimaste ferite, non sappiamo quante altre vite porterà via la folla prima che tutto questo finisca. Dopo che la polvere si sarà posata e raccoglieremo tutti i corpi senza vita, potremo cominciare a contare le cicatrici finanziarie e psicologiche che rimarranno per molto tempo. Questo scrive e c'è naturalmente un interrogativo attorno al ruolo che hanno avuto anche però i media, dice, ma bisogna anche interrogarsi a fondo sul ruolo che hanno avuto i media indiani con il loro modo irresponsabile di coprire gli eventi. L'aver mandato in onda senza la minima riflessione ogni possibile dettaglio del massacro ha probabilmente aiutato i terroristi più di ogni altra cosa. Come commenta un blogger spagnolo, vorrei che la televisione NDTV smettesse di mostrare tutto quello che le forze armate stanno facendo. Non pensano che i terroristi asserragliati negli alberghi possono guardare benissimo la TV? Questo si legge ancora sul quotidiano La Stampa. Vi è anche Maurizio Molinari che parla di Obama, il boxer biraziale. Il quarantenne Barack Obama, alla guida del progetto ambizioso di cambiare l'America e trasformare il mondo, si circonda di volti vecchi per governare Washington al fine di attutire l'impatto dell'evento rivoluzionario di essere il primo biraziale a prendere posto nello studio ovale. La scelta di circondarsi di veterani democratici e repubblicani. Questo scrive Maurizio Molinari a proposito del natura biraziale del nuovo presidente degli Stati Uniti. E in più, ecco, volevo invece segnalarvi una cosa che ha poco a che fare con queste grandi questioni internazionali, riguarda la politica italiana e riguarda Pionati. Qui c'è un termine, Pionati, l'ultimo volta gabbana, cioè un linguaggio molto forte usato dalla stampa, dall'UDC alla corte di Re Silvio. L'ex notista politico del TG1 ha fondato Alleanza di Centro, insomma è un transfuga, dice il transfuga Francesco Pionati, ha annunciato che entrerà nel gruppo misto con l'obiettivo di riunire i centristi che non vogliono andare a sinistra. Ecco questo dunque questo passaggio ulteriore nella politica italiana. Il quotidiano L'Unità, terrore a 5 stelle, e però la strada di Mumbai, c'è la cronaca di questo, ma in prima pagina viene messa anche Firenze, bufera su Castello, si dimette l'assessore Biagi. Per la magistratura sull'area verde si è giocata una partita edilizia a spese dell'interesse pubblico, favorendo gli appetiti di Salvatore Ligresti e sindaco Domenici, blocco tutto. Questo quindi grande spazio, anche una vicenda tutta e solo italiana. Il Messaggero, India, terrore e morte senza fine. E Fitoussi invece dice, a proposito della il noto economista Fitoussi, a proposito della crisi internazionale, agire insieme senza protezionismi, ecco le due condizioni per uscire dalla crisi. Più dei soldi conta la volontà di agire insieme, e simultaneamente parla chiaro Jean-Paul Fitoussi, il più noto economista di Francia, esperto di politiche pubbliche, presidente dell'osservatorio della congiuntura economica. Per gli stati europei non ci può essere salvezza fuori dall'Unione. Questo scrive, dice Fitoussi sul quotidiano Il Messaggero. Elezioni universitarie, la Sapienza vince la lista del rettore Frati e il centrodestra diventa maggioranza alla Sapienza. Questa è un'altra notizia politica di grande rilievo. L'onda stavolta è quella del centrodestra nelle elezioni del più grande Ateneo d'Europa. La Sapienza di Roma, che conta quasi 150.000 studenti, hanno votato in 10.000, sono candidati legati alla maggioranza a vincere. L'onda ha disertato le urne e quindi vince appunto il centrodestra. E poi due titoli delle copertine di Panorama e L'Espresso. Panorama, operai contro operai, la crisi coinvolge tutti e non ha colore politico. Nelle fabbriche che tagliano è guerra tra lavoratori, mentre L'Espresso titola l'ecologia ci salverà, la recessione si supera con l'high tech verde e con le energie rinnovabili, la tesi di Rifkin, i progetti di Obama, le sfide per l'Europa, i ritardi dell'Italia. E con queste due segnalazioni da Panorama e L'Espresso io ho concluso il mio tempo, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.